dai, continuate con Antonio che continua a lavorare qua. Ci sentiamo a dopo, dai. Ciao a tu. Ma tu sei molto più aperto di me per quella zona, io no, la verità no, assolutamente, sono più aperto per Ucino, quella zona lì. Io sto utilizzando, perché siccome questo l'ho attaccato qua, sto utilizzando due alimentatori, perché l'ho attaccato qua questa radio, e vabbè, non c'era più posto, sto usando il switching e quello normale del GBC, ma che una cannonata va, sì, va bene, con quello ventilato. Ce l'ho più di 10 anni, ce l'ho, va, è una gannonata, va, e non lo darò mai perché sono geloso. 7 7 7. mamma mia, oi oi oi, vabbè da, pure perché sono un sacco di soldi. Lo so, costavano parecchio, costavano. Mi, a luna ci guardiamo i tortellini con la panna oggi, mi. Chia, voi mi passa, rubiato già è pronto. Fai così, ma non c'è problema, problemi bisogna anche, c'è un problema per me, basta dirlo, è rubiato, è pronto. Lo so già, mi fa vedere. Oh, freddo, bulli che stazionari non vinnei, no, che. Di sabato l'hanno dato, quello gli piace a noi. Mi. E infatti adesso me lo guardo, visto che lo so, visto che lo so, me lo guardo. Voglio fare una prova con 5,50 a vedere se ti arrivo, aspetta un attimo. Me lo guardo, aspetta, mi aspetti un attimo che faccio una prova con l'altro apparecchio a vedere se arrivo. Attento Gianni, Cucchi Antonio, K. Sei più forte di radio, vero? L'attenuato, prova a vedere il segnale. Oh, chi sei? Santiago 7, Radio 5, sì. E meno fatto, già, ma già va bene lo stesso. Lui, lui. Si è spento l'altro alimentatore, è acceso questo. Hola. Gappa mio, lascia un pochettino questo acceso e poi vedo e mi metto l'altro apparecchio ancora, faccio usare, uso l'altro. Non posso attaccarlo col 550 già. 12 watt, e cosa posso, sfondo il legnale. Non ne ha, no, questo già, non ne ha di coso, non ne ha, ecco fatto bussia, non ne ha, purtroppo non ne ha, non va nulla, non ne ha di coso per abbassare il watt. Lo so che c'è la corrente. Oioia. Lo so, ma che c'è in movimento già? KK, dai. Adesso accendo un pochettino l'altro, col 747, a vedere come arrivo. Attimo, io. Già, mi senti? adesso sei un pochettino basso di segnale, sei. Hola. Hola. Poi sei arrivato. K, mi senti lì a Plattamona? Già lo so già. E l'altro è migliore, l'altro. E lo Zeus, con la Lafayette Zeus. E vabbè, un po' più basso, però ci arrivo lo stesso, dai. Kappa, col 747. Ti stai muovendo, vero? A voglia che arrivi già. A voglia che ti sento. L'importante è che senti a me. Kappa, dai. Oh, yeah. Vabbè, quello che c'è bisogna farlo andare. Aspetta che metto il compressore a vedere se dice qualcosa, se non fa ancora quel rumore. Beh, col compressore com'è? Sempre quel rumore senti? Ehi, buh, chissà che marasur ci va. Sicuramente è così, sicuramente. Cappa, fra un po' prendi la butti, no? Ma il prezoma ti ha messo già? Se ti ha messo il prezoma? Peccato, non sei il mio tipo, peggio per te. Buongiorno, comunque. Ciao Antonio, sono in ascolto, mi prendi a tu. Ciao Mari, buonasera. Buongiorno Antonio, siamo ancora di giorno. Buongiorno anche a te, bene ti arrivo lì. Benissimo, benissimo. Guarda, sto usando lo Zodiac, quello vecchio. Gianni è come si affianca a me. Vabbè, tu sei più aperto in quella zona, io sono meno aperto. Io sono chiuso, però che arrivo Roma a te, sì. Avete modulato in 10. Anche se è la rotonda non è vicino, io sono in mezzo, se non sbaglio sono 8 km dove sei tu, 8 km dove c'è la rotonda, dunque se non mi sbaglio, dunque va benissimo, vai avanti, accelera gente, Gianni. Sì, è tutto pieno di macchine, come ti dirigenti sei uscito, devi un poco di sole, c'era qualcuno che passeggia anche qua. Adesso io sono fermo, mi sono fermato qua proprio di fronte agli scogli della rotonda, vedo tutto il panorama, anche la petroliera in lontananza. Meglio gai, avanti a tu. Mi stai facendo venire la voglia di andarci, Io quando vado lì non lo so, guarda, sarà una cazzata, ma mi rilasso parecchio, mi rilasso, sembra che sia nel mio paradiso. E a tu comunque, se vuoi c'è anche tu la rotonda, bisogna che ti procuri un paio di penisoma di grasso, se no già non ti fa salire neanche in macchina. Ah, io prima di cominciare la stagione calda, dai, prima di iniziare, allora facciamo una cosa, ci mettiamo d'accordo, ci organizziamo, portiamo salsiccione, pancetta, di tutto, ci cerchiamo un posto io prima di cominciare il periodo di mare, dai. No, ci possono fare pochi di spiaggia, tu, se ti vai a capitaneria ti vuole molto allucinare. E poi non si possono fare le mucchiate, Antu, io so che ti piace fare le mucchiate, non si possono fare, se abbiamo il Covid. Però se io mi porto il fornello non mi fanno niente con la piastra, cioè io c'ho il fornello e c'ho la piastra in ghisa, con quello non ti possono dire niente. Ma non può andare di diverse persone, hai capito? È un casino Antu, è un rischio. Vabbè cazzo, non sarà 100 anni no che durerà questa merda, appena che finisce tutto. Quando finisce tutto si può fare l'orgetta, come vuoi tu, io mi metto nudo con le mani in tasca, avanti già. E come fanno quelli che fanno le urti allora a fare le urti, se no si possono fare la mucchiata? Già le fanno di nascosto, già non sono pazzi, già le fanno, se non sono scemi. tu a fare? Chi c'ha fatta cosa, Marì? Chi c'ha fatta cosa? Cioè, magari se poi ci liberano, se ne vanno un po' fuori dai coglioni, eccetera, eccetera, prima di iniziare il caldo, si può fare, io c'ho il fornello, prendiamo la cosa, la piastra, cazzo, si muove la carne, si cucina e si mangia. Io so, è una cosa già, lo so, ma speriamo che... infatti, bisogna avere pazienza, poi già si risolveranno le cose, speriamo almeno, c'è la gente a un po' di capo. Speriamo bene, avanti a tu. Cappa. Sì, già, dai, si può risolvere. No, già si può risolvere, bisogna aspettare un po', e poi vediamo, cioè. Cazzo, già mi era piaciuto, cioè. Io qualche giorno che farà bello, cioè. O io e Sara, cioè, che non siamo in due, io c'ho un punto. Cazzo, ero vostro, mi porto la carne giù, Iulia. E ci cambiamo, vero, Antonio? Ci cambiamo, avanti già. Ehi, ancora vediamo in giornale, Antonio, arrestate. Mentre si faceva la carne a Plattamona. Perché mi dovrebbero arrestare? È un fornello a gas, scusami. Metto la cosa e mangi, cioè, non è che... Cazzo mi fai? Cioè... Bene, fa la rosa con la legna, bene, ma... Allora, non hai capito, legna, è che legna buona, amico. Ah, mi ha fatto un po' di poco mio legno, al mio riposo da cosa, da ma com'è? Ma legna, quercia, pure quelle, come si chiama? Quella legna, quando stai cucinando, senti un bel profumo proprio... E lì ci puoi mettere... Noi forcetto lo facciamo così, mi. Io lo spazio già lo sai, già ce l'ho. E invece noi forcetto lo facciamo alla strada, in terra, proprio per la ghiaia. Mettiamo la legna e forse... Sono due girarossi e succandiamo, non hai capito, Antu? Con la legna abbiamo un altro discorso, c'è una questa povera, io lo so, la piastra è roba veloce e cizza. Ma con la legna è tutto anche il sapore. Avanti, Antu. Vabbè, ma se non si può fare il fuoco, cosa fai? Ti arrangi con quello che hai, ti arrangi, cosa fai? Fornellone e piastra sopra, sì, ce l'ho anch'io quella lì. C'ho un fornellone e c'ho una piastra su misura, in lisa, questa sopra. La cena, una volta c'è la piastra calda, oia, che carne che ci vuole, già fatto con le rosse. Avanti, ho già. Poi basta che sia mangiata. L'appetito già lo manca, vero tu? Non c'è problema, già ci può organizzare anche lì, si pone tutta la faccenda e via, è troppo raggettaggio. Però basta che calmi questo casino che abbiamo tu. Una volta calmato questo casino si può organizzare. Adesso nulla, io non mi fido, meglio nulla. Ti volevo dire, ma tu le poco, tu, quando tu le consegni, prima di consegnarle, prima di essere sulle fai, le butti disinfettante la poco. Dice che le fanno loro, beh. Dai, chi l'azienda? E la Liquigas dice che le disinfettava, poi non lo so. Avrà una disinfetta con un biscio, cosa ne so? Una laura, cazzo. Loro le fanno disinfettate, poi le portano a te. Tu le carichi sulle bombe, tutto inquinato, hai compreso, che non andava a te. Vabbè, lasciamo perdere, va, è un casino. Ok, signori, io vi ringrazio delle piccole cazzate che abbiamo sparato. Io mi faccio inquietare perché c'è mio nipote che mi sta chiamando a fare due tiri a pallone, sai, io ho un cappetto di... c'è un piccolo cappetto, 20x8. Due cospette e poi andiamo a mangiare se ce n'è. Ciao a tu, sono in casa, buon pranzo, ciao anche a Gianni. Buona guardata del mare. Ci sentiamo stasera, avanti a tu. Cappa, ciao Marì, dai, ce la risentiamo alle prossime, avanti già. Ehi, sono in parte tranquillo, dai, sto arrivando verso Sassa, già. Mi sono mosso in questo momento, nella rotonda, stando verso Sassa. Cazzo già, mi stai accendendo, tutte e quattro LED mi stai accendendo, Cappa. Però insomma io sono, no, sai, sono stato in mezzo, tu fai le cose, io sono vicino a Marini. Tra Marini e Villagonista, in mezzo sono, gli poche parole. Cioè, tutte e quattro vedi a te. Già lo credo, già. Esatto, già pompa, meglio così, dai. Di nuovo, ciao a tutti, salutare anche tutti gli ascoltori, per me QRT. ciao Marie, dai, ce la risentiamo alle prossimine. Dove sei arrivato già? Ah, sai che adesso proviamo il portatile a vedere come arriva. Hola Gianni, mi senti? K, ho messo il compressore adesso, guarda a vedere. K, dai. E verrai quando arrivi a Sassari mi sentirai meglio. Bella, no? K, il portatile sta andando. Va bene. K. Tutto in movimento per direzione Sassari. Ma mobile doppio rumore, direzione Sassari cambio. K, sempre più forte mi arrivi, sempre più forte, ma penso anche io. Sto andando verso l'incrocio della morte, sto passando la strada, sto sui vidriati, faccio. K, sto guardando il segnale, 7-6 qua, K, vabbè, le telecamere si fanno, dai. Molti non ci arrivano. lo so. Bene, mi senti lì? Adesso faccio da là, oramai arriva gli altri. Vabbè, vorrei che ti arrivo a bomba, ti arrivo, cazzo. No, te sto andando giusto, stavo pensando che avevo sbagliato in cruce. Capa, ma dalla Budi stai salendo. Faccio sotto i vidriati, la seconda parte dove c'è l'incrocio della morte, adesso sono. Adesso sono l'incrocio della morte. Faccio la seconda parte, poi faccio l'altro verso la Budi. K. Se mi passi nell'altra strada ti arrivo, minimo a metà strada ti arrivo già a fondo scala, minimo. E beh, già un grido già. Sì, lo so già. Lo so. Ui. La burri attacco 550 che arrivo, una cannonata di. Adesso l'ho acceso un po' per farla andare questo apparecchio. Ha capito, mi fanno 100, 110, la te mette più freddo. Già lo so, già ho capito già. Sì, sì, già ti copio sempre già, e tu mi copi. No, stavo pensando di mettere il suo sedile in finestra, perché farci il rientro qua, capito? Cola. Cola. La Coca-Cola. Mi accorgi sempre, sono in mezzo al viale al potere, capito? Ti ho appena perso già, però già ti sento sempre, tu mi ascolti sempre, forse era un piccolo coso negativo, era. Sì, lo so, è un punto un po' carino, strano, Hai zitta che pongo la sua radio che andrà un po' meglio, dai. No, già pompa, chi c'ha maledizione. Ma sono tu che c'hai bassa, tutta piena di cascatone. Non è tutto favorevole, lo penso. Se cambio casa, vedi. Secondo dove mi metto, allora spacco il culo a tutti. Purtroppo io ho quello di graziato, uga. Fate la grattacella, tutti in concorrenza. Ma mi basterebbe anche andare là in piazza con la Mariana, va, e poi un po' di più. Aspetta, attacco l'altra radio, va. Hola. Bene, sempre bene, ti arrivo col portatile già. Sento Gianni, mi ascolti? Già ti ascolto, anche se sono in zona d'ombra. Qua l'arena del sole, il cambio. Zona ombra cosa? Mi stai arrivando molto più forte adesso, Sì, ma l'arena del sole è zona d'ombra. Molte radio le perdimi, perché quando sei discesa, quando sei salita magari no, ma quando sei discesa perdi molte radio e molti segnali anche al baracchino. Lo so, ma qua mi sta già cominciando già ad arrivare 9, senza problemi. Non so io come sono, se mi senti molto più forte, però mi stai arrivando già, No, tu sei basso sempre di segnale, Anto, però di radio vai bene. Adesso non so se ho toccato lo squelch o devo controllare l'apparato, dai, magari era regolato lo squelch per non sentire rumori, eccetera, e ti abbassate il segnale. Devo controllare quello, ma adesso camminando non posso farlo. K, va. Non mi ricordo Giulia, c'è un sistema che c'è, solo quando parli apre, se no non apre. Cappa, e a vedere che fra poco alza, non ti preoccupare che già alza fra poco. Ma vaffanculo a me. Hola. E così va molto meglio, dai. Con 4 watt era poco fa me. Adesso stai pompando forte a tuo disegnare. E poco fa ero con 4 watt, ero con 4 watt. A base di nuvi, gas, cioè, hai cambiato dal giorno alla notte. Quello che adesso leggi, quando tu hai premuto quel tasto, leggi, c'è scritto 40 watt davanti nel display. No, no, non è il portatile, no. Ah, questo che cos'è? Lo zio sull'alfaiete. Esce bene, canto in radio. Ma cosa c'ha? Processore quello lì? Cosa processore? Il DM1000 attaccato c'ha. Andava bene, va benissimo. Bagabba, mi sono dimenticato la ciuffa asciugata. Kappa, DM1000 ce l'hai anche tu ancora. Sì, proprio quello vecchio, quello vecchio. Vanno bene quei microfoni, ti fanno uscire bello forte il radio. Metti l'eco a vedere. Ho capito già, cosa hai detto? Prova a metterle l'eco a vedere come esce con l'eco. Ma passo via, 2,5-3. Hola. C'ha difetto. Attenzione Gianni, cambio. Troppo, tu abbassa appena, abbassa. È mezzo difettoso, già. Hola. Attenzione Gianni, doppio rum, cambio. Ripete troppo, ha troppa ripetizione. Vabbè, togli, andava meglio prima, andava. Hola. Vabbè. Non va bene, no, sei un pochettino invecchiato, ma io lo uso così, non mi interessa. Lo uso senza eco, lo uso. Invece un bel mighizzo, questo è proprio uno dei primi. Io li avevo cambiato tutti i fili e poi l'ho venduto. Li avevo cambiati tutti i fili, anzi me l'ha pintato, li ho messi tutti i fili grossi perché si staccavano, e li ho messi più lunghi, di modo che quando aprivi il coperchio non si staccavano. Gli altri, quelli che hanno messo loro, come tu toccavi il coperchio, cazzo, quando la aprivi si staccavano. Già lo so, già. Dove sei arrivato? La curva di Graziella, dove c'è Graziella dietro. Adesso sei bello forte qua, Anche tu, quanto arrivo? Su per giù, quei led dovresti essere più di 9,20. Cava, già va bene, là. Fatto un bel giretto, ho messo il sole. Che ore sono? E l'una, amica, adesso me ne rientro a casa, mi faccio il mio pasto, lo faccio anche a Tyson. Tanti saluti da Tyson. Brutto maledetto, va. Ma mica su cane strano veramente. Non sai cosa c'è, te l'ho detto io, devi aspettare che sia lui a... Se tu lo accarezzi e cosa quando... quando lui non vuole, fa così, capito? Deve essere lui, visto con la tua compagna come ha fatto. La tutta riccata, tutto canto. Tranquillo, però si è avvicinato lui. È un cagnaccio, è un cagnaccio cattivo. Ma cosa ti dice? Chiedi a Claudio, gli fa le feste, quando viene a casa Claudio gli fa le feste. Vabbè. Non lo so. Vanno a pelle i cani, è così, vanno a pelle. Ma è tutto quanto strano, Ma cosa fa? Quello è solo un cane che è da guardia, è territoriale, ci fa rispettare, come fatto così. E quello è il suo carattere, te l'ho detto dall'inizio, aspetta che sia lui, invece tu l'hai toccato. Ma dove sei arrivato già? Rotatoria di Via Chiarini. E sei già cominciando ad arrivare fortissimo, sai. Proprio per andare in Via Chiarini, dai, la rotatoria che c'è prima dei Chiarini. E capo, io poi quelli di quella zona mi arrivano tutti forti a me. Stai cominciando a arrivare fortissimo proprio. Capo, sono contento per te. Sì, K, qua c'è oltre 9,20, sì. Ma forte però, no, ma quella zona c'ho sempre avuto, cioè, ho sempre avuto il varco libero, infatti a tutti quelli che sono lì gli arrivo forte io. Già sei forte, già si vede che sei forte qua. Ma lo so, oramai sono orientativamente, sono, cioè oramai lo so già com'è me. Ehi, comunque dai, sono soddisfatto di questa antenna. Va bene, già. Buscato tutto, pirillino, tutto quanto, fatta bene, di lusso. Regolato le stazionarie, via 1 e 2 al massimo. Vabbè, è normale, è normale. KK, già mettiamo la Ringo sopra la tua capota. No, che prende umidità poi c'è stazionaria. Questa qua è 1 e 1 nei canali normali, poi se sali su va a 1 e 2, ma proprio devi salire un bel su, eh. Dammi in caramella. Vai, Luca Manicomio. Dove sei già? Ehi, sto salendo via Enrico Berlinguer, sto andando a casa. Secondo scala. Tu dove sei, capo? È qua, sono 25, sto pranzando. Sentiamo stasera semmai, dai, ciao. Io devo andare ancora a cucinare. Già quasi mangiato, dai. Adesso mangio la frutta. E poi vediamo, forse anche il digestivo. Ma c'è qualcuno che vuole entrare, c'è. Cosa hai detto? Non l'ho capito. Qualcuno che vuole entrare. Oh, Addo, ma tu sei? Sei tutto sano, sei tutto bo. Oh, cosa ci sia? Guarda se non si dice in FM, mi. C'è una radio un po' strana, non riesco a sentirti bene. Già, dove sei arrivato? Sei vicino a casa, so. Sei quasi a fondo scala, sì. Come sì, sì, sì, più o meno, a me mi pare pure meglio. Già va bene, già va bene. Ma c'è cosa che vuole entrare, ma no, boh, è tutto, non ci riesce a capire bene. Brantonio Grodde mi sembra a me, mi pare. Brantonio? Guarda un po' se mi ascolti. Adesso sì che ti ascolto, Anto. Luca c'è ancora? Casa sua è già, casa sua. Luca? Luca, se n'è andato a mangiare, se n'è andato, Anto. Cappa, avevo bisogno un attimino di parlare. Cappa, non c'è il numero? No, negativo, tu ce l'hai il mio. No, se no, te l'avrei detto. Vai su cosa, su Messenger, lo chiami. Sì, infatti faccio così. Ciao, ciao. Ciao. Già, arrivato sei? Anche se ti ascolto basso basso, dai, l'hai sentito. Sì, sono arrivato adesso al parcheggio, dai. Sono qua. Sono arrivato, avanti, rimonte giù tutto e me ne andate a casa. Ciao, buona giornata a tutti, ci sentiamo stasera. Ma come ti arrivo lì al parcheggio già? Quando scala? Va bene, quando ti arrivo a casa ti arrivo lì. Ok, dai, ce la risentiamo, dai già, io vado giù a cucinare, ok? Devi anche calcolare che qua c'è tutto circondato di palazziali. E mi arrivi lo stesso. Giù, è minimo ti arrivo 9,40. Cavolo. Ciao Antonio, dai, ci sentiamo, ciao a tutti quanti, buon pranzo a tutti e a stasera. Ciao, ci risentiamo, ciao. Antonio, attenzione bombolo.